e portami le prove che c'è ancora libertà, che stringere le mani dà ancora qualcosa, dà senso ogni cosa. Niente da dichiarare, da fare, da urlare, oppure ricordare. Fatti sempre i fatti tuoi, fatti furbo più che puoi. Vai fuori, vai fuori, sarà solo un momento che non passa mai di qua, saranno le parole da dire, da urlare, da usare, e fatti ancora un sogno e fingi che sia qua. Ritrova le tue tracce, la rabbia, la faccia, nel vuoto che c'è. Fatti sempre i fatti tuoi, fatti furbo più che puoi. Vai fuori, vai fuori.